24 febbraio di Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Diana Meulinger. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 24 febbraio. Stamani ci è arrivata in casa una triste notizia. Il signor Venanzio è morto stanotte. Povero signor Venanzio, era un po' uggioso, ne convengo, ma era un buon uomo e mi dispiace molto che se ne sia andato. Mi pare vederlo ancora. Povero signor Venanzio. Fine del 24 febbraio.